Thank you. Thank you.

Domanda per rispondere a tutti i cittadini della città democratica di Manchester, tra l'altro la maggiore mostrata della regione. Non rifugiati siriani rappresentano attualmente il 10% della popolazione giordana, ma potrebbero diventare il 100% nel 2014. Va detto che non sono nati in Giordania, ma sono giudici. Arrivo per incontrare John Perry, secondo tempo riferito della stampa americana, al suo osservatore di casa americana. Aveva incontrato il mostro con la mamma Marina, mentre oggi veniva a Mosca per vivere con la Russia e per dare una vista della possibile conferenza internazionale sulla Forex. Oh, my God.